feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole wide world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. And I wish you could know how it feels to be me. And you see and agree that every man should be free. I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun and look down at the sea. Buonasera cari amici della Tela Sonora, Radio Alma 101.9 FM. Questa sera, terza puntata, Carovana dei Poeti, con me qui in radio Alicia, Mario e la impareggiabile, l'ineguagliabile, la meravigliosa Paola Giug, che se non ci fosse non potremmo andare in onda. Ciao Paola, ci sei? Sì, sì, ciao. Ciao, benissimo. Allora, siamo un po' in ritardo, ma non vi preoccupate perché questa sera abbiamo due ospiti della Carovana dei Poeti, Matteo Fantuzzi e Massimo Palme. Uno dei due, credo, ci chiami dalla Spagna, se non mi dimentico, se non mi sbaglio. Terza puntata perché comunque la carovana va avanti, ci sono alcuni ospiti che sono in ritardo, infatti queste persone dovevano partecipare oggi, per esempio Luca Paci, ma ci ha pregato di mandarlo in onda prossimo venerdì. Non ci sono problemi, la carovana è ai suoi passi, ognuno ha il suo passo, la Tela Sonora aspetta, diciamo, tutti i poeti. Abbiamo già intervistato Luca Ariano, che ha presentato questa antologia Protesto di Fare Editore. Intervisteremo anche Luca Paci alla fine. Oggi ci sarà poi un contatto radiofonico in particolare con Sebastiano Adernò, perché domani ci sarà la proiezione di Ustisso Sangu, che è un film, un documentario, storie più a sud di Tunisi, preparato da Sebastiano Adernò e da un altro personaggio altrettanto valido che mi ricordo sempre di citare, ma che si chiama, adesso ve lo trovo, si chiama... Non lo troviamo, lo diremo dopo. Ah no, si chiama, non lo vedo, Francesco Di Martino. Scusa Francesco se mi dimentico sempre di te, ma niente, essendo amica di Sebastiano ho più facilità a parlare di lui. Comunque ci sarà anche Francesco insieme a Sebastiano, credo siano giù in Sicilia o comunque da quelle parti, perché c'è la proiezione o una manifestazione nei prossimi giorni. Loro vi parleranno del film. Due parole veloci per continuare a dire che abbiamo scelto Protesto non per protestare come fanno i poeti con la loro parola, ma per darvi un messaggio, che è un messaggio di una comunità di intenti che ha una parte magica. Voi sapete che la Tela Sonora è un ambito, diciamo, opera nell'ambito della poesia, della parola, del suono, ma soprattutto è un momento di riflessione per quello che sta succedendo in Italia, soprattutto perché noi mandiamo poesia italiana, non solo, ma siamo particolarmente devoti a questo, e quindi è un modo per manifestare così da qua, dal centro dell'Europa, la nostra... il nostro sdegno, comunque la nostra, direi invece, speranza, perché ci sono tantissimi giovani validi, come per esempio i poeti di Protesto, e tutti i poeti che hanno partecipato alla Tela Sonora finora, tutti i poeti che hanno, grazie alla loro capacità così anche di saper scrivere, perché non è da tutti, con la poesia manifestato questo così, questo rilancio, questo voler comunque emergere, questo voler essere positivi e credere nelle cose, perché siamo noi con il nostro pensiero positivo, con la nostra volontà, a in qualche modo frammentare e macerare, se vogliamo, il marciume o comunque tutto il negativo che esiste nella società o che fa parte comunque della nostra vita quotidiana. Quindi non lamentiamoci, restiamo positivi, continuiamo nella nostra così battaglia, perché ogni giorno è una battaglia per modificarci, per renderci più forti, cerchiamo di continuare a lavorare sulla nostra integrità e soprattutto crediamo in quello che facciamo, cioè alla base di tutto ci deve essere il nostro immaginario, quindi essere prima di avere, come ricordo volentieri, come spesso ci racconta Stefano Eliodanna, che è stato qua in radio con noi, è diventato un po' il motto: la tela c'è, è e poi avrà. Avrà modo di esprimersi, ha comunque già modo di mandare in onda poeti, poeti italiani validi, e chissà, in un prossimo futuro ci saranno magari anche evoluzioni, perché ogni anno la tela cambia e diventa più grande. Ho detto già abbastanza, direi musica. Oggi abbiamo musica particolare, abbiamo i Conigli Suicidi sotto scorta con chiaramente il nostro amico Fabio Volpe di Note Volanti, i nostri carissimi amici Double Sense. Sì. Dillo Paolo, dillo te. Double Sense. Double Sense. E poi? E poi basta. E poi Black Era. Ah, abbiamo tempo. Ci sono anche Black Era. Voi sapete che Note Volanti è sponsor di Caravana dei Poeti, quindi Conigli Suicidi sotto scorta, significativo il brano sotto scorta che dà il nome all'album dedicato allo scrittore Roberto Saviano. Mario, ti faccio parlare dopo, vuoi comunque salutare i nostri amici radioascoltatori? Va bene, grazie, buonasera a tutti, buonasera ai poeti con cui siamo collegati e specialmente a Sebastiano e Francesco, con cui parleremo dopo, per introdurre come si deve la serata di domani sera con la proiezione del film documentario Ustisso Sangu. Bene, quindi visto che siamo in questa tematica di immigrazione, di persone, di difficoltà, la Sicilia, il sud Italia, mandiamo magari proprio sotto scorta, mi fanno sì dalla regia, un sorriso della nostra amica Paola. Restate con noi. Noi capardimma pace o suon, non ci dicimma mai perché, perché, perché. Qualche problemino tecnico. Allora, intanto raccontiamo un attimino i Conigli Suicidi chi sono. I Conigli Suicidi è un giovanissimo duo rap hip hop. Esordisce in così poco tempo con un CD particolarmente interessante, Sottoscorta. Quindi comunque, se non riusciremo ad ascoltare Sottoscorta, magari mettiamo un altro pezzo, non ti stare a preoccupare Paola. Jimmy Six e Narcan si incontrano nel febbraio del 2008, vantando già delle collaborazioni precedenti, e decidono che insieme possono fare strada. Inizia così un intenso lavoro che li porterà a dar luce al primo album. Jimmy Six si avvicina alla musica hip hop grazie al fratello, che gli fa sentire il disco rap Odio Pieno dei Colle del Fomento. Ne rimane così affascinato da interessarsi alla cultura rap. Narcan, più giovane all'età di soli 11 anni, intraprende la strada del hip hop ed inizia a far parte della crew Menti Croniche 2001. Però, dopo essersi fatto conoscere sulla scena dei rap, in seguito a molti allenamenti di freestyle e ad una serie di battle a cui ha partecipato, viene chiamato a far parte nel 2006 della crew White Rabbit Clan, nella quale ha modo di crescere e di farsi conoscere. Nel 2007 decide insieme a Jimmy Six di formare un nuovo gruppo, i Conigli Suicidi. Bene, li ringraziamo perché comunque oggi direi che questo comunicato stampa sui Conigli Suicidi e anche il titolo dell'album Sottoscorta è molto molto attuale, direi ci va a pennello. Non so se dalla regia siamo pronti, ci riproviamo e due minuti, tre minuti di musica, restate con noi, non ci abbandonate, a dopo. Noi capardimma pace o suon, non ci dicimmo mai perché, perché, perché. Anima e cuore. Parlerò del sistema Camorra, meccanismo complesso, troppe volte liquidato semplicemente col fenomeno militare o di periferia. La Camorra è un fenomeno davvero complesso perché, a differenza di Cosa Nostra in Sicilia, ha da sempre, come dire, ha avuto un minore ascolto, un minore eco, una minore attenzione sul piano nazionale. La 'Ndrangheta in Calabria, Saga Corona Unita in Puglia, i Basilischi in Lucania. È per te Saviano, è per te Saviano. Troppo tempo passato sotto scorta, 2 anni che la mia anima è morta. Una sorta di allerta, la mano scrive certa, indagine aperta, nessuna van scoperta, nessuno che mi ferma. Vivo dentro una caserma, tutto ciò che faccio è letale. Giurano che il mio respiro non arriva a Natale e non capisco neanche come mi vogliono far fare la fine di Falcone. Scrivo, scrivo e tutti in Italia, il paese fantasy della Walt Disney. Testa ho troppi pesi, usciamo e torniamo a casa lesi. Nella mia città vedo troppo smog, esce il mio libro, faccio uno shock e qualcosa ho mosso. Hanno gli occhi puntati addosso e non vedo nessuna via di uscita. Lascio l'Italia per rifarmi una nuova vita. Troppa gente vive in miseria, le parole muovono gli atomi e la materia. La prima pagina è stata storta e da allora vivo io sempre sotto scorta. Troppa gente vive in miseria, le parole muovono gli atomi e la materia. La prima pagina è stata storta e da allora vivo io sempre sotto scorta. Anima e cuore. Sempre sotto scorta, ormai non sono più né una persona viva né una persona morta. Forse è meglio l'eutanasia, almeno dagli spiriti del male io potrei volare via. Lontano, scappare e nascondermi, ma non c'è posto alcuno. 5 dita lunghe che conoscono tutti e non conoscono nessuno. Che conoscono tutti e non conoscono nessuno. Nella mala che il male, se il male fa male, i tuoi cari da caricare a ricordi cari, descritti nei diari, pubblicati su giornali e qualche giorno dopo li ritrovi sopra i necrologi. Ma che speranze mutate sugli ufficiali che in uffici per pochi denari sono pronti ad aprire portoni, dicendo tanto loro son solo scrittori ed il mondo dal cui scappo non è soltanto fuori. Troppa gente vive in miseria, le parole muovono gli atomi e la materia. La prima pagina è stata storta e da allora vivo io sempre sotto scorta. Troppa gente vive in miseria, le parole muovono gli atomi e la materia. La prima pagina. Benissimo, cari amici, eccoci, abbiamo in linea Massimo Palme. Ciao Massimo. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo introdotto Carovana dei Poeti, Protesto. Vuoi raccontarci tu l'esperienza della dell'antologia Protesto di Fare Editore e poi ci leggi una poesia? Ma certo. Benissimo. Da dove ci chiami? Dalla Spagna? Da Barcellona. Da Barcellona. Sì, dalla Spagna. Dalla Spagna con amor. Abbiamo una Alicia qua, una spagnola in radio con noi oggi, che magari poi sono ti saluta. Uno di questi dicono cervelli fuggiti, boh, insomma, anche i cervelli medi fuggono, dai. Ok, poi ci racconti cosa fai oltre a scrivere poesie. Dai, raccontaci la tua esperienza e soprattutto leggici la poesia. Hai 10 minuti di tempo. Sì, la mia esperienza era l'anno scorso sotto Natale, un collettivo italiano di poeti, il collettivo Anarchica, mi scrisse se volevo partecipare a questa iniziativa, Protesto, che nasceva in seno di Anarchica e non solo. Mm-hmm. E insomma, mi sembrò un'iniziativa assai interessante, perché tocca temi estetici allo stesso tempo anche temi, se non direttamente politici, voglio dire almeno temi sociali, insomma temi importanti per il nostro paese in questi tempi, no? Mm-hmm. E così decisi di partecipare, insomma, tra l'altro dando anche uno spaccato di divisione un po' dall'esterno. Mm-hmm. Che anche altri dei partecipanti hanno, chi ha vissuto all'estero, chi ancora ci vive, eccetera. Bene. E sull'antologia in generale credo che abbiano detto parecchie cose nelle puntate precedenti. Sì. si tratta, il titolo stesso lo dice, no? Protesto, in qualche modo di alzare un grido di fastidio, se non di indignazione, di fronte a determinate situazioni che sono lì davanti a tutti, e fare nel nostro piccolo, insomma, un passo verso l'Italia che vorremmo. Senti, tu parli di paura liquida, come il jamón iberico e legale nel bagaglio a mano, allora. Dici di sì, il giovane catalano, me ne stupisco, meglio per mamma e papà che hanno voglia di riabbracciare il figlioletto all'estero. Beh, qua praticamente siamo in tema, siamo tutti figlioletti all'estero, che quando andiamo a casa ci fanno mangiare come se fossero mesi che non tocchiamo cibo. Ma tu non ridisci per un altro motivo, perché? Esattamente, infatti, non perché? Ridisco perché la paura si trasmette via cavo, eh? Io direi che forse non è nemmeno una paura liquida. Adesso, Paura liquida è un libro ben più famoso del nostro, del sociologo Bauman, però io vedo, perlomeno nella zona da cui provengo, io sono di Trieste, nella zona del nord-est, vedo che la semplice minaccia televisionata di qualsiasi tipo di rappresaglia, che sia dalla multa per il divieto di sosta alla protesta sociale che si possa alzare, direttamente lascia le persone chiuse nella propria casa, appunto, a televisarsi, per utilizzare così un neologismo, e effettivamente io di fronte a questi tipi di atteggiamenti non ridisco. E non ridiamo. Poco tempo fa qui a Barcellona ho assistito a un documentario molto interessante, tra l'altro girato da due ragazzi italiani, romani, che furono in Venezuela e intervistarono anche il presidente Chavez, insomma un bellissimo reportage sulla situazione venezuelana, e loro stessi dicevano: incontro delle coincidenze inquietanti fra la situazione di un paese che tutti definiscono alla fine antidemocratico, meno ambiguo dal punto di vista della libertà di espressione, e del nostro, che è invece democratico. Che è democratico, però che cos'è democrazia? Questa è una buona domanda, perché io credo che assistiamo a una deriva populista abbastanza forte, no? Ma secondo te sulla Luna ci siamo mai andati veramente, oppure ci ha raccontato una storia anche lì? bella domanda. Perché c'è un mio amico che è convinto che ci abbiano raccontato una storia, che non ci siamo mai arrivati. La questione è che tutto poi alla fine deriva nell'opinione, no? Per cui tu ascolti la gente al bar e si riduce a solo un'opinione, no? Quello che pensa che ci siamo andati, quello che pensa che non ci siamo andati, però nel frattempo che importa? Le situazioni storiche sono non lo so, cioè, non ha senso forse adesso il dibattito siamo andati o non siamo andati sulla Luna, ma aveva senso in quel momento tenere tutti con gli occhi inchiodati alla televisione l'uomo stava atterrando sulla Luna. E certo, c'erano ben altre cose. Più forte, l'11 settembre delle Torri Gemelle, cioè, quell'evento, sicuramente è accaduto quell'evento, ma è accaduto per volontà o per condiscendenza di chi e come, ma non ha senso ormai, perché poi la storia si è sviluppata in una certa maniera. Senti, ma se io ti dicessi pagina 174, patria, con un bel punto interrogativo, di chi è questa poesia? Pues è una poesia che ho scritto. La vuoi leggere? La voglio leggere, sì, come no. Aspetta. Dai, ce l'hai? Un attimo solo. Perché poi non ti faccio leggere l'altra, Devastazione dell'Asia in una serena partita un pomeriggio di settembre. Patria. Questa poesia l'ho scritta poco prima di partire, per partecipare come spettatore a uno dei festival di poesie più belli che ho visto nella mia vita, che era il Festival di Sarajevo. E stavo sull'autobus e mi interrogavo, anche andando in Bosnia, quindi con una certa tensione emotiva per quello che si era vissuto lì, e scrissi scrissi questo pezzo. Vai. Vado. Patria. Se i bambini piangono, affondano nelle nebbiose facciate, porta al mare oceano al loro cospetto, ruba il tempo, trasforma lo spazio, rinchiudi la materia nella materia. Se i bambini hanno paura ad incontrare il futuro, donagli la morte come inevitabile arrivo. Se i bambini cresceranno, se le foreste rimarranno polmoni e gli oceani sangue, e se i vulcani cureranno le ultime malattie che ci inventeremo, se il fulmine ancora saprà squarciare il cielo, se onde di calore continueranno a irradiarsi dallo spazio, se tutto ciò ci sarà ancora, ancora sarà vita, ancora vittoria, ancora silenziosa e profana vittoria. Bello. E poi ce n'è un'altra, tantissimo, perché il tema dei bambini, del futuro, della paura mi è particolarmente caro, quindi trovo che tutto poi si riconduca a come viviamo da bambini, a quali sono i nostri sogni da bambini, a come riusciamo a giocare quando siamo bambini, facendo finta di essere grandi, ma con tutto l'umorismo e quella simpatia che solo i bimbi riescono ad avere, e poi alla paura che ci inculcano per farci ubbidire, no? Per in qualche modo, ecco, e invece che spiegarci che cos'è veramente la paura e di che cosa forse bisognerebbe aver paura. Senti, hai ancora 4 minuti perché poi c'è uno stacco pubblicitario. Se hai una poesia o qualcosa, un messaggio che vuoi darci, questo è il momento. A te, decidi. Beh, io reciterei un'altra poesia. Uh-huh, benissimo. Scritta nella stessa occasione, e anche questa presente nell'antologia Protesto. Vai. Sentitela, aspetta, adesso mi sono... ho perso l'indice, eccoci qua. Si intitola, questa è un po' più provocatoria, eh? Si intitola Contro la patria e contro ogni patria canto. Mm-hmm. Dai fili spinati, da tormentosi litigi dentro cucine troppo strette. Oh, caduto. Purtroppo ultimamente abbiamo dei problemi telefonici, non so neanche se riusciamo a rintracciarla, perché lui ha detto che era a pagina, vuoi provare a controllare? A pagina 174 c'era la prima e sarebbe interessante poter continuare. No, non è questa, non è quest'altra, era Contro la patria, no, di qua non c'è, lì non c'è nient'altro, vabbè, non importa, direi a questo punto allora di mettere, l'hai trovata? Sì, perfetto. Sì. Ok, magari la leggo così diamo a Massimo la soddisfazione. Dai fili spinati, da tormentosi litigi dentro cucine troppo strette, dalle carceri gonfie di benessere, piscine, giardini e ristoranti, dall'ultima frontiera, da dietro lo specchio dei flagelli. Mi ergo solitario, mendicante, cieco di rabbia, uccisore di dolori morti da un pezzo, dalle spalle coperte di chi non ho affrontato, ancora. Sempre mi svesto, e nel nudo, in quel nudo in cui nessuno entra mai, nel nudo che ci spaventa, e solo lì, e non solo in quel nudo, posso ritrovare forze e pensieri del gioco, bel gioco, il tuo signore. Le radici affondano, canta novembre, le porte di nuove torture, bestemmiano i vecchi, terra di nessuno, quest'autobus da dove contro la patria e contro ogni patria canto. Bene, ringraziamo Massimo Palme, direi che a questo punto mandiamo la musica perché dobbiamo contattare il nostro prossimo ospite, ci sarà uno stacco pubblicitario, non ne possiamo fare a meno, Mario hai 2 secondi per raccontarci, anzi 30 secondi, Ustisso Sango, vuoi raccontarci magari in 30 secondi e leggici la nota di interni di presentazione del film? La prima riga forse. Sì, d'accordo, infatti è un po' lungo, però ecco, volevo confermare, in attesa di contattare con Sebastiano, che domani verrà proiettato qui a Bruxelles dalle ore 6 all'Espace Marx, questo film documentario, Ustisso Sangu, storie più a sud di Tunisi, che parla appunto che racconta, diciamo, il dramma dei migranti che arrivano in Sicilia attraverso le loro parole, i loro sguardi e le loro storie. Questo appunto è nato da un'osservazione di questo fenomeno che adesso appunto lasceremo a Sebastiano il modo di spiegare meglio. Perfetto. Ok, allora pubblicità. Cos'è la pubblicità dello spazio? La pubblicità non vuole arrivare. Non vuole arrivare, ma allora lasciamola lì. Ma forse questa sera ci risparmiano. Ecco. Thank you. La risata eclatante del vostro amico Claudio. I cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Con Pay & Go International rimanete in contatto con i vostri cari. Chiamate e inviate sms verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus, così tanto, così vicino, insieme con Belgacom. Ma passatevi una bella serata insieme a noi invece, la sonora, molto meglio, con tutto il rispetto. Allora, andiamo avanti che ci hanno già rubato un sacco di secondi questi della Proximus. Abbiamo Matteo Fantuzzi, lo chiamiamo, che pezzo metti? Indovina. È Double Sense. Sì, Double Sense, www.doublesense, myspace.com/doublesense. Dai, andaci il pezzo, dai. Vado. Vai. Cari amici della tela, abbiamo di nuovo con noi un personaggio, un poeta dell'antologia Protesto, Matteo Fantuzzi. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Ciao. Senti, allora, abbiamo pochissimi minuti perché, come ti ho spiegato prima, problemi tecnici. Allora, poesia e esperienza in protesto. Scegli tu come? Prima la poesia oppure l'esperienza? Beh, direi innanzitutto l'esperienza, nel senso, credo che oggi davvero tematiche sociali e civili siano sempre più importanti. Trovare una serie di ragazzi con cui condividere un percorso proprio di esperienza poetica, ma anche diciamo negli argomenti di cui ci preme parlare, credo che sia davvero davvero importante in questo momento. Cioè, secondo me proprio la poesia si fa valere di più in quei luoghi e in quei periodi in cui le cose non vanno in maniera ideale, e questo è decisamente uno di quei momenti. Ok, e fin qua ti seguiamo. Raccontaci invece, anzi leggici una tua poesia e poi magari la commentiamo se hai voglia e tempo. Allora, ti leggo una poesia che è anche in Kobari, la mia opera prima, e che parla della strada alla stazione di Bologna. Aspetto davanti alla stazione di Bologna un mio amico, residente nel Bresciano, e che non vedo ormai da tempo. Non tutti i viaggiatori sanno che lì c'è un orologio rotto. Alcuni modificano il proprio, mentre altri si rivolgono agli addetti chiedendo spiegazioni, lamentando il disservizio. E per certuni quella lapide è patetica, porta tristezza la mattina presto a questi che si recano al lavoro. Gradirebbero piuttosto un cartellone che la sostituisca, qualcosa di esplosivo, una pubblicità di sconti eccezionali, di prezzi bomba, qualcosa di inimmaginabile, che colpisca le coscienze, che sui passanti abbia un effetto devastante. Allora, tu ti identifichi con quanto ci ha detto prima Massimo Palme, cioè la protesta, il fatto che non ci debbano togliere l'indignazione, perché se ci tolgono anche la capacità di indignarci, ci tolgono tutto. Protesto per te è una protesta o è qualcosa di che positivo? Perché noi abbiamo alla tela sonora rivisitato un po' il titolo, pro nel senso di a favore, testo, a favore della parola per spiegare determinate cose. Tu come ti piazzi? È sicuramente positivo, cioè io vedo questo lavoro proprio come qualcosa di positivo, cioè dall'indignazione che ha detto giustamente anche Massimo sta la reazione, non possiamo pensare di piangerci addosso in maniera continuata ed eterna, dobbiamo reagire, e si reagisce anche attraverso il testo, diciamo, quello che dovrebbero fare come compito le persone che lavorano sulla poesia è proprio questo, cioè utilizzare come strumento la poesia poi per andare a fare delle cose estremamente concrete, come parlare di quello che ci sta a cuore. Perfetto, allora senti, mandiamo un pezzo musicale, resta con noi e poi ti facciamo leggere un'altra poesia, perché abbiamo... Va bene. Ok, quindi resta con noi. Paola, sei pronta con la musica? Sempre con gli suicidi? Sì. Ok, benissimo, restate con noi anche tu, Matteo. Sergente, prepara i bambini, mimetica e fucile in spalla. Avete controllato il bersaglio? Sì. Bomba! No! Bomba! Ho 7 anni e sono già in missione. Non sono un patriota, sono schiavo della mia nazione. Mi hanno prelevato dalla mia famiglia. Vogliono che penso solamente alla guerriglia. Strilla la polvere da sparo e la scintilla. La lacrima di mamma che brilla dai miei occhi e dal mio volto. Lo sconforto e parte un colpo. Nel mio cuore c'è una falla. Peso 30 kg ed ho un fucile sulla spalla. Sono un bambino e non ho mai giocato. Sono un bambino e sono un soldato. La vita non riesco a capire. Voglio vedere, non vi voglio stupire. La guerra è un mio dovere. Sono uno schiavo del potere. Volete che combatto fino alla morte? Lo farò con tutto me stesso se questa è la mia sorte. È troppo tempo che maneggio armi. Nei faccio ricordi di scoppie di petardi. Gli altri giocano a fare giochi. Io gioco per gli adulti a fare stragi. È troppo tempo che maneggio armi. Nei faccio ricordi di scoppie di petardi. Gli altri giocano a fare giochi. Io gioco per gli adulti a fare stragi. Eccoci di nuovo, cari amici, oggi un po' movimentata la puntata, abbiamo sempre Matteo con noi. Matteo, allora, come promesso, se hai voglia di leggere un'altra parola, un'altra poesia e le tue parole, per esprimere appunto questa indignazione di cui abbiamo parlato fino adesso. Eppure non ne parla mai nessuno nei telegiornali, e a me viene spontaneo sempre domandarmi se in India o nel Centrafrica si crepi poi realmente per gli stenti o solo per un raffreddore, e che non stiano quelli invece bene, come sulla costa romagnola o nei locali sardi, come la bella gente con i sandali griffati o con gli yacht a 80 metri. Perché altrimenti, se qualcuno stesse male, lo direbbero senz'altro, non parlerebbero del tempo o delle mode dell'estate, cosa si beve o cosa fare verso sera, perché se no non lo farebbero. E se un metalmeccanico italiano non arrivasse a fine mese, fosse costretto a far la fila in Caritas per far mangiare la famiglia tutti i giorni, in TV ne parlerebbero, perché anche questi avranno certo una coscienza, un senso d'oppressione che ne ha niente, giunti a casa, chiusi nella propria stanza. Bene, senti, ti faccio una domandina di quelle a bruciapelo. La prima poesia che hai scritto, e se a scuola un professore ti abbia mai invogliato a leggere e scrivere poesie? La prima poesia che ho scritto l'ho scritta anche abbastanza tardi, perché avevo già 18-19 anni, cioè quando le altre persone di solito smettono di scrivere poesia. Uh-huh. Io scrivevo racconti brevi prima, e a forza di farli più brevi alla fine sono sfociato nel mondo della poesia. E no, non ho avuto professori che mi hanno fatto particolarmente amare la poesia. Ho avuto un professore, quello di filosofia al liceo, che mi ha fatto amare il metodo storiografico, il metodo proprio di percezione delle cose, quindi diciamo continuo a mandare avanti quel metodo anche di ricerca delle fonti a cui lui teneva tanto, che mi ha trasmesso anche adesso che parlo di cose estremamente reali, o magari vado a compiere delle ricerche come per la strage alla stazione di Bologna su cose che sono avvenute negli ultimi tempi e di cui c'è tanto materiale per compiere l'analisi. Okay. La poesia è sempre stata una passione proprio, che è emersa e che adesso decisamente non mi abbandona. Bene, io direi che sei stato molto, molto sintetico, ma hai lasciato comunque un'impronta in questa carovana, perché hai parlato di passione, hai parlato anche questa tua esperienza di quando hai iniziato a scrivere poesie e del tuo modo di protestare, che è comunque una protesta in positivo, quindi lasciare la parola. Per noi, sai che della tela è importante questo uso che si fa della parola e del suono che ne consegue. Quindi, se non erro, è la prima volta che partecipi in radio, ti avevamo già chiamato. Partecipo sempre volentieri. Ecco, e che sia comunque un appuntamento fisso, allora, magari non una volta all'anno. Ci risentiremo sicuramente, perché con Alessandro Ramberti, che ne approfitto, ringrazio enormemente per questa edizione di Fara Editore, abbiamo altri progetti e sicuramente tu farai parte di questi progetti. Quindi grazie, chiudiamo qui fino appunto che la linea non cada da sola. Ti ringraziamo, Matteo. Un abbraccio e buona continuazione nella tua professione. Ciao. Ciao. Bene, io direi a questo punto di lasciare l'ultimo spazio della serata a Sebastiano, a Dernò, a Mario, che ci racconteranno magari nuovamente. Io ti lascio il microfono mentre vado a chiamare Sebastiano e Francesco. Se vuoi raccontare ancora come è nata l'idea di presentare Ustisso Sango, perché l'associazione, perché il Club del Libro, ecco, ti lascio il microfono, vai. Sì, grazie. Ecco, l'iniziativa di presentare il film domani è venuta anche proprio pensando a che domani è una giornata molto importante, la giornata in cui si terrà a Roma la manifestazione nazionale antirazzista, convocata da tutta una serie di collettivi, di organizzazioni sociali, eccetera, per reagire in modo forte, molto visibile, a tutta quell'ondata di intolleranza o di leggi, addirittura leggi razziali o pararazziali, che si sta diffondendo purtroppo in Italia, purtroppo anche spinta dalle più alte istanze politiche e della stampa e dell'informazione. E allora appunto, siccome attraverso Gabriella, Radio Alma, il Club del Libro e l'Associazione Antonio Gramsci abbiamo stabilito un contatto con Sebastiano Adernò, è sorta appunto l'idea di presentare qui a Bruxelles, per la prima volta fuori dall'Italia, il loro film documentario sulle storie dei migranti che arrivano nel sud della Sicilia. A Sebastiano chiederemo di come va, come è nato e come sta andando questo progetto, perché il progetto Ustissu Sangu non è solamente il film in sé, ma è anche tutta una serie di iniziative, di attività in giro per l'Italia per presentare questo film, e normalmente la presentazione di questo film dà anche luogo a dibattiti o comunque a confronti tra le persone presenti, proprio per riflettere sui fenomeni delle migrazioni, su quello che sta succedendo in tante parti dell'Italia, non solo dell'Europa, con tutte le persone che appunto cercano una vita migliore, che spesso trovano invece delle difficoltà gravissime, anche proprio un atteggiamento di chiusura e di intolleranza, che rende il loro sforzo ancora più difficile, ancora più penoso. Qui tra l'altro, ecco, essendo italiani a Bruxelles, in Belgio, siamo ancora più sensibili a questi temi, perché sappiamo benissimo che fino a ieri, praticamente fino all'altro ieri, erano gli italiani, tantissimi italiani, tanti connazionali che andavano in giro per il mondo e che si sono trovati gli stessi atteggiamenti che adesso altri italiani più moderni o più ripuliti, diciamo, riservano ad altre persone che cercano di fare la stessa cosa che i nostri padri, i nostri nonni o noi stessi abbiamo fatto e stiamo facendo. Per questo domani appunto, con la presentazione del film, proporremo anche un dibattito dal titolo Le migrazioni ieri e oggi. Ci sarà un esperto di migrazioni, Hisham Amrani, un italo-marocchino, mediatore interculturale, e faremo anche appunto un parallelo tra il presente e il passato. Bene, grazie Mario, meno male che esisti, che insomma hai presentato, che mentre io vado di là a trafficare insieme alla Paola, siamo in contatto con Sebastiano e Francesco. Ciao Sebastiano, ciao Francesco, ci sentite? Sì, ciao a tutti. Ciao, forte e chiaro, mi raccomando, parlate forte così vi ascoltiamo anche noi che siamo qua a Bruxelles. Dove vi trovate in questo momento? Siamo a Noto, in Sicilia, entrambi qua, nel nostro paese di origine. Bello! Dove tutto ha avuto inizio, l'idea del film. Allora, passiamo subito all'attacco. Noi abbiamo già fatto una presentazione, abbiamo spiegato un pochino di che si tratta, di cosa, come avverranno le cose domani durante la proiezione. Raccontateci invece la vostra esperienza, che cosa è stato fatto fino adesso. Avete una decina di minuti, più o meno. Sì, inizio io. Il film è stato prodotto e adesso praticamente stiamo portando in giro con varie presentazioni e proiezioni il film con un sistema di un po' di diffusione dal basso. Inizialmente quest'estate, quando abbiamo iniziato a promuovere il film, abbiamo fatto delle tappe qua in Sicilia e con il ricavato delle copie vendute. Adesso stiamo reinvestendo tutto per fare delle proiezioni, diciamo, nelle grandi città del resto d'Italia. Quindi siamo stati a Roma, a Bologna, ci sono state proiezioni a Siena, e quindi stiamo seguendo, ad alcune proiezioni cerchiamo di andare anche noi dove c'è possibile per motivi di tempo ed economici. E passo la parola a Francesco, che anche lui mi aggiunge qualcosa. Innanzitutto salve a tutti. Niente, che posso dire? Bruxelles penso che sia la prova che la distribuzione dal basso sta funzionando. Noi abbiamo dato molto affidamento a questo meccanismo, che ogni persona comprasse una copia oppure che l'avesse avuta perché gli abbiamo magari spedito noi, e organizzasse in qualche modo la proiezione, perché comunque oggi il cinema, se ci pensiamo, insomma, è solamente con le grandi distribuzioni. Noi alla fine abbiamo cominciato così, con una telecamera che non era nemmeno nostra, ce l'hanno prestata, e abbiamo girato un film e ce lo stiamo distribuendo da soli con le persone. Abbiamo venduto tantissime copie e la cosa sta funzionando, cioè ogni persona sta praticamente pian piano organizzando una proiezione autonoma, senza bisogno che ci siamo noi, anche perché c'è una cosa che Sebastiano prima non ha detto, molto fondamentale, che chi acquista la copia praticamente acquisisce i diritti di duplicarla, cioè chi possiede questa copia può masterizzare 10, 50, 60 copie, anzi noi imploriamo la gente a, diciamo, a masterizzare e a distribuirla, a darla magari agli amici, ai parenti, ai conoscenti, quindi tutto in funzione di questo, insomma. Ottimo, hai fatto bene a ricordarcelo, perché noi faremo tantissime copie, io personalmente lo regalerò per Natale, sì. E trovo che questo sharing knowledge senza diritti di proprietà sia eccezionale, sia l'idea che funziona, e questo bottom up. E quindi io trovo che sia fantastico, cioè questa idea che non si debbano avere le grandi distribuzioni, ma soprattutto è l'individuo, il singolo, che cambia il mondo, cioè sono le rivoluzioni individuali che cambiano poi il futuro, il destino dell'umanità. Ma raccontateci invece i premi che avete già ottenuto, perché io so da Sebastiano che avete già ottenuto un premio, forse non uno solo, ma svariati. Sì, siamo stati selezionati ad alcuni festival, quello più eclatante per noi, anche perché è arrivato prima dei festival italiani, è stata una selezione al Queens Film Festival di New York. Siamo finalisti là. Ottimo, bravi! 10 documentari circa. Il concorso. Ottimo. E poi una selezione al Levante Film Festival di Bari, e di questi giorni una selezione al Festival del Cinema Africano di Verona. Ottimo. E poi non lo so, cioè adesso non ci sono stati anche gli Italian Screenshot Documentary a Trento, e dove le varie televisioni europee hanno la possibilità di visionare degli shot del documentario, e c'è stata Al Jazeera UK e un'altra televisione finlandese che sono state, che sono interessate, insomma, all'acquisto del documentario, e lo stanno visionando per decidere se acquistarlo oppure no, per metterlo in... Allora, prima di chiudere, dal punto di vista umano, questa esperienza, le persone con le quali avete parlato, cerchiamo di esorcizzare un attimino questa paura dell'immigrante, soprattutto mi è piaciuto nel film quando voi dite il clandestino ha un nome, ha un cognome, ha una famiglia, ha un papà, una mamma, e soprattutto magari anche ha studiato. Sono rimasta sconvolta da quella ragazza che ha lasciato la Nigeria perché aveva paura di essere violentata, di subire violenza, e quindi nonostante avesse una laurea, avesse studiato, un lavoro, ha lasciato per venire in Italia. Esorcizzare la paura, cercare di capire le cose e ricordarsi che soprattutto i nostri genitori, o comunque i nostri nonni, sono venuti qua per esempio a Macinelle in Belgio per lavorare come migranti, e sono stati forse trattati, non lo so, anche all'epoca male, hanno avuto grossissimi problemi di integrazione, non capivano la lingua e si sono trovati in grosse difficoltà. Quindi dal punto di vista umano, qual è stata il vostro arricchimento, la vostra esperienza umana? Per come la vedo io, diciamo che il concetto, questo che hai descritto perfettamente tu, è la base del nostro lavoro. Noi abbiamo cominciato così, senza sapere nulla, cosa c'era dietro a uno sbarco, a che strada facevano i migranti una volta sbarcati in Italia, non ne sapevamo nulla. Una volta che ci siamo entrati dentro e l'abbiamo seguita anche noi, ci siamo resi conto invece di tutto questo, cioè che queste persone veramente hanno dei sogni, dei progetti, e il fatto che già appena arrivano qua vengono chiamati clandestino praticamente già perde anche il significato e tutto, insomma. Quindi questo era principalmente il nostro concetto base, cioè umanizzarli, come dice anche Fabrizio Gatti poi nel documentario. Io volevo dire una cosa, per me, cioè avere la possibilità di frequentare, ad esempio si vedrà nel film, la comunità delle donne, o di frequentare persone che vivono anche in paesi meno industrializzati dei nostri, meno civili, qualcuno dice, per me è stata una grande opportunità, perché io sono sempre più convinto che in loro siano rimasti intatti dei valori di fratellanza e dei valori sani di che cosa sia l'esistenza e la vita, cose che noi nel nostro individualismo occidentale ci siamo un po' giocati fra troppe cose, certo, troppe ambizioni e troppe cose. Penso che loro siano molto più radicati alla terra, e che oggi l'Africa rappresenti il continente e la terra nel senso di questa parola. Bene. Quindi è stata una grande occasione. Benissimo, ragazzi, vi lasciamo, vi ringraziamo, comunque avrete un nostro resoconto sul sito poi di entrambi le associazioni che hanno ospitato il film, lo ricordo, l'associazione Antonio Gramsci e il Club del Libro Esbelle, ci sarà quindi il resoconto di come sarà andata la serata. Vi ringraziamo, concludiamo qui prima che la linea cada, un grande abbraccio a Sebastiano Adernò e a Francesco Di Martino, vi ringraziamo e faremo tantissime copie del film, non grazie, dubitate. Benissimo. Grazie. Grazie, grazie a voi davvero. Allora, io vorrei innanzitutto ricordare velocemente la frase, diciamo, che mi ha colpito in questa conversazione, appunto il ritorno a Madre Terra. Voi sapete che Anna Maria Farabi è l'ideatrice di questo programma e con lei è sempre stato fatto un lavoro proprio di terra. Io chiamo Anna la mia sorella, è diventata mia sorella, una sorella di terra, una donna di terra, nel senso che nonostante abbia uno spirito molto elevato, ha le radici ben fondate, sempre mi ha detto di comportarmi nella vita come se io fossi una candela, con questa fiamma sempre accesa e sempre la candela è dritta, e nonostante appunto tutte le avversità che possano capitare. Ringrazio Anna, perché senza di lei la radio probabilmente non l'avremmo neanche pensata, e come spesso ricordo le parole di Stefano, che sempre mi hanno ormai colpito: prima ricordiamoci, dobbiamo essere, come hanno fatto Sebastiano e Francesco. Loro volevano essere, come dire, hanno avuto quest'idea e prima di avere i mezzi hanno concepito l'idea e hanno portato avanti comunque una storia infinita, perché questo Stissu Sango credo che non finirà qua e non finirà neanche a Bruxelles, è soltanto una tappa. Mario, ti lascio adesso i microfoni, hai 5 minuti per raccontare anche di parlare di Hisham è arrivato qui come clandestino, probabilmente adesso non lo so come si senta, ma è un ragazzo di tutto rispetto con una preparazione, una voglia, una volontà, una grinta eccezionali. Domani chi verrà alla rappresentazione, ricordiamo ancora dove? Plus Rup. Sì, ecco, per confermare, il film è domani all'Espace Marx, che sta nella Rue Rup, praticamente la piazza che è a due passi dalla Gare de Midi, si arriva facilmente dalla metro di Annessence. E niente, come accennava Gabri, effettivamente il dibattito sulle migrazioni ieri e oggi sarà introdotto da Hisham Amrani. Lui è originario del Marocco, ha vissuto molti anni in Italia, adesso è qui a Bruxelles da qualche tempo per tutta una serie di circostanze personali e professionali. E ecco, ci porterà un'esperienza diretta, non solo dal punto di vista personale, ma la sua esperienza come mediatore interculturale, quindi stando insieme, dando assistenza, consiglio, eccetera, a tutta una serie di persone che arrivavano in Italia e dovevano scontrarsi con tutta quello che sappiamo dell'Italia, la mentalità, la burocrazia, eccetera. Con lui ci saranno anche altre persone dell'emigrazione tradizionale qui in Belgio, che porteranno un po' un'esperienza di tanti anni fa, e troveremo che alla fine sono sempre le stesse cose, i pregiudizi, anche l'ignoranza e anche la stupidità, se vogliamo dire, sono sempre le stesse. Speriamo di superarle insieme. Bene, allora direi salutiamo, perché c'è ancora un pezzo musicale. Ringraziamo i nostri amici che ci ascoltano al venerdì sera, sappiamo che magari tra le 20 e le 21 avrete di meglio da fare. Ringraziamo Radio Alma per darci lo spazio. Ci sono progetti, la radio vuole espandersi, abbiamo in mente, lo ricordo, proprio perché Conigli Suicidi potrebbe diventare veramente il disco e la band portavoce del nostro nuovo programma, che sarà un programma dedicato alla camorra, alla mafia e alla 'ndrangheta, ma attraverso la poesia. La poesia per noi, la tela sonora, è una tela che si espande, che capta un'antenna e rimanda on the air. Ringraziamo tutti per questa collaborazione, grazie Paola di esistere, mandaci il pezzo musicale, questo bel sorriso, prima o poi te la faccio una foto, sai, mentre non te ne accorgi ti faccio una bella foto e la metto sul blog, così, oh, finalmente, vai, che cosa ci proponi? Ascoltiamo un altro brano dei Conigli Suicidi. Perfetto. Grazie e ci sentiamo venerdì prossimo. in giro vedo troppi spiriti, la gente non fa un cazzo e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa nulla e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa un cazzo e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa nulla e prende i meriti. Siamo davanti ai giudici, eravamo in mille, siamo rimasti gli unici. Lavoro sotto sotto, rimango nell'ignoto. Sei davanti ad un burone di là ci sta il vuoto. Non mi vanto di ciò che faccio, il tuo impegno lo straccio. Ti mostro il dito, ti prendo il braccio. Non ti approfittare della mia purezza. Se sei stato di ebbrezza, non mi metto la coscienza. Uso la testa e la chiudo con finezza. Sono tuoi meriti, solo in apparenza. Senza di noi siete senza pensa. I meriti adesso ci siamo meritati. I colili bianchi non vanno mai sfidati. Di rap siamo assetati, neanche con cecchino sul tetto. Ci sentiamo puntati, ci sentiamo puntati. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa un cazzo e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa nulla e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa un cazzo e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa nulla e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, più abiti che abili, domabiti, è inutile, non meriti. In giro vedo troppi spiriti che fanno gli abili, invidi, lidi, tra lodi, di laidi. Beh sì, so che un bel contento, quando ti prendi le lodi per un altro, quando ti metti al posto un altro. Beh sì, un bel contentino, quando non fai cazzo e poi ti inculi il cappellino. Ma tra dire e fare ti ritrovi nella merda, il freddo nella notte, una lama nella pancia. Ma tra dire e fare ti ritrovi nella fossa, il freddo nella notte, tuo coniglio una minaccia. Minaccia alla cifra, ci tracce, prendi tanti calci. Per chi si muove nell'oscurità più basso degli sorci. Minaccia alla cifra, ci tracce, prendi tanti calci. Per chi per fama fame con la circe firma i porci. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa un cazzo e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti, la gente non fa nulla e prende i meriti. In giro vedo troppi spiriti.